la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la prima volta di Cristiana Capotondi, attrice romana, schiva, di grande talento. La sua bellezza raffinata le è valsa un bellissimo complimento da parte di Franca Ciampi ai tempi della presidenza di Carlo Azeglio, quando le disse: «Lei è una donna di una grazia particolare, deve trovare l'uomo giusto». Donne che parlano ad altre donne dell'amore, della forza, della bellezza. In fondo, in questa puntata della prima volta, l'intreccio tornerà spesso su questo tema. Una puntata dunque al femminile che parte facendovi sentire un estratto del film Io ci sono, su Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata dall'acido in un agguato ordinato dal suo ex, Luca Varani, nel 2013, un film interpretato dalla Capotondi. Ho tolto la maschera per parlarvi. Sono sicura che non vi darà fastidio. Io sono questa qua. E non ho nulla di cui vergognarmi. La bellezza che mi interessa oggi è quella profonda che ognuno ha dentro di sé. Io la mia l'ho trovata nella forza di accettare e amare la persona che sono diventata. Alle ragazze voglio dire che non è amore sentirsi annientate psicologicamente, rinunciare alla propria indipendenza, ad essere se stesse, solo perché lo vuole lui. Vogliatevi bene e credete in voi stesse e sappiate che ogni forma di violenza subita non è colpa vostra perché avete scelto l'uomo sbagliato, ma è colpa di chi l'ha commessa. L'amore non tollera nessuna forma di violenza, mai. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha. Con Cristiana Capotondi ci incontriamo sulla base di un accordo condiviso, quello cioè di dare spazio a una gigantesca campagna di vaccinazione che Medici Senza Frontiere sta realizzando in Repubblica Centrafricana. Un vaccino per proteggere circa 220.000 bambini al di sotto dei 5 anni, contro almeno 9 malattie infettive, tra cui morbillo, difterite, tetano e pertosse, tutto entro la fine del 2016. Ci dice la Capotondi che ha scelto di esserci perché crede nell'organizzazione MSF e perché ha viaggiato e si è resa conto delle condizioni in cui si vive in alcune aree del mondo. E la precarietà è l'altra cifra di questa puntata. L'allarme della mortalità infantile per delle malattie che da noi sono curabili ormai da quasi un quarantennio, credo che sia un allarme al quale non si può restare indifferenti. Parliamo di malattie chiaramente come il tetano, come il morbillo, e chiaramente Medici Senza Frontiere in Africa sta cercando di ridurre questa mortalità. Questo mi ha fatto chiaramente accettare immediatamente il sostegno a questa campagna. Lei è una viaggiatrice, ha avuto modo di andare anche insomma in Africa o comunque in posti dove si fa un bel po' più fatica che non qui da noi a vivere? Ma io ho viaggiato molto in paesi con diciamo condizioni diverse, un po' quella del terzo mondo, se vogliamo definirlo ancora tale, sia in Africa che in Afghanistan, per esempio. È una realtà totalmente diversa, ma ho avuto modo di riscontrare le difficoltà di una vita quotidiana per le persone, i bambini addirittura oltre i 5 anni di età per il 35% non riescono ad arrivare. Quindi penso che queste iniziative da parte dell'Occidente siano fondamentali. Lei è molto giovane, ma ha iniziato anche molto giovane a fare l'attrice. Le volevo chiedere innanzitutto che cosa si aspettava quando da ragazzina si è avvicinata appunto a questo mondo. Pensavo che sarebbe rimasto un gioco meraviglioso e che poi avrei fatto Ma inizialmente mi piaceva l'idea di fare l'ingegnere navale, quindi proprio spaziavo per altri contenuti. Poi alla fine, piano piano, mi sono innamorata del senso del mestiere collettivo che c'è dentro il cinema, anche di ciò che riguarda la possibilità di trasmettere valori, di creare degli immaginari, e questo mi ha appassionata e quindi poi alla fine l'ho fatto diventare a gioia e con grande entusiasmo anche il mio lavoro. Ecco, le volevo chiedere una cosa. Per gli scrittori, ad esempio, quando finiscono un libro c'è sempre l'incognita, no? Riuscirò ad essere uno scrittore veramente, cioè riuscirò a fare un altro libro. Questa sensazione si ha anche facendo gli attori, le attrici? Ma credo che in tutti i mestieri si abbia questa sensazione quando si deve chiudere un deal e si è un imprenditore e si deve lavorare con delle altre aziende, così come nelle trattative sindacali che sono diciamo, la nostra quotidianità, almeno a livello personale, credo che un po' il senso il dubbio sul futuro, che poi è quello che ci muove per cercare di far sempre meglio, ce l'abbiano tutti, a tutti i livelli. Però nel suo caso, nel caso proprio dell'attrice, dell'attore, forse c'è anche un po' la precarietà collegata anche al dover magari fare delle scelte, non farle, farle nel momento giusto. Ah, beh, questo fare le scelte giuste, sì, ha ragione, ha toccato il punto nevralgico del mestiere. Fare le scelte giuste credo sia la cosa più complicata. Però io penso che lavorare un po' con il senno del poi sia anche un po' sbagliato e fuorviante. Bisogna fare le cose che in quel momento si credono migliori e se si sono scelte vuol dire che in quel momento erano le cose che ci scaldavano di più, quindi vanno bene. Per esempio adesso sono nelle sale con il film Tommaso di Kim Rossi Stewart, è un film che ha a che fare con un aspetto della vita, che è la ricerca di se stessi, l'introspezione, tutta giocata nel rapporto a due, mi sembrava una tematica molto interessante. In fondo è un film che avrei scelto da spettatrice e quindi poterlo vivere dentro da protagonista addirittura mi entusiasma ancora di più. La prima volta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. Cristiana Capotondi, attrice romana, 33 anni, 20 anni dei quali trascorsi sul set, ha iniziato infatti a fare l'attrice a 13 anni. Mi aspettavo che rimanesse un gioco, ci racconta, una carriera che matura di anno in anno con scelte fatte seguendo l'istinto e il bisogno di recitare impegnandosi, come quando con Pif lavora al film La mafia uccide solo d'estate. Mamma! Mamma! Papà! La mafia a Palermo ha sempre influenzato la vita di tutti e in particolar modo la mia. La vedete quella ragazza? Si chiama Flora. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini. Qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Quella mafia è maga. Secondo me è tutta una questione di film. Filippo, vedi che non la puoi sposare. Sono innamorato perso. È contro le regole di Cosa Nostra. È figlia di genitori divorziati. Io, se lo sottotitolo permette, un'idea ce l'avrei. Ammazziamo il padre. Salvo Lima, prova Salvo Lima. Dove stai andando? Ad intervistare dalla chiesa. L'onorevole Andreotti dice che l'emergenza criminalità è in Campania e in Calabria. Generale, ha forse sbagliato regione? Non capisco come funziona. Che l'ho spiegato di nuovo. Se sente caldo, deve ammaccare questo, neve. Vede, neve. Se invece sente freddo, ammacca sole. Ma qualche giorno dopo, Totorina capì come funziona un telecomando. Hanno dimostrato che lo Stato non è con noi! Ma la mafia può uccidere anche noi? Tranquillo. Ora siamo d'inverno. La mafia uccide solo d'estate. Ecco dunque l'emozione di un film che parla di un male tanto profondo e radicato nel nostro paese. Un film che dovreste fare vedere ai vostri ragazzi, perché di mafia si parla sempre meno. Eppure la mafia continua a influenzare le nostre vite, non solo quelle dei siciliani. Guardare La mafia uccide solo d'estate, cioè farlo probabilmente è stato molto emozionante, ma credo che sia l'impatto forte probabilmente le è arrivato anche dopo, da chi lo ha visto, da come si è relazionato a lei. Ma guardi, in realtà mi fa una domanda molto interessante che non mi aveva fatto mai nessuno, perché La mafia uccide solo d'estate, al di là di farlo, è stato proprio vederlo. E c'ero io dentro, quindi ho vissuto quell'esperienza, ho vissuto quelle emozioni anche quotidiane sul set, sapendo che il film era quello che poi sarebbe diventato. Ma credo che il momento più alto di emozioni sia stato proprio vederlo, perché è un film pieno di tante cose che in fondo veramente solo con la visione si riescono a vivere al massimo. È successo anche a lei, come è successo ad altri interpreti di film proprio collegati a storie così forti, che poi in qualche modo giovani le persone le chiedessero conto di questa sua partecipazione al film? Ma più che chiederne conto è come se ti considerassero improvvisamente un piccolo esperto di quella tematica. Io in parte, ecco, sono una persona curiosa, quindi in parte sono andata ad approfondire delle tematiche grazie a certamente La mafia uccide solo d'estate, a le grandi conoscenze che ha Piff in merito e a quello che poi sono riuscita nella vita appunto a tirar fuori da tanti incontri. Quindi devo dire che il fatto di essere considerata una persona alla quale chiedere delle cose mi piace, ma dall'altro lato mi sento assolutamente impreparata, quindi rimando sempre a degli esperti, dico ma io questa è la mia piccola esperienza, però potreste sentire, in modo che appunto non si creda che io ne sia padrona della materia. Però è vero quello che dicevano alcuni magistrati antimafia, che bisogna proprio puntare sui ragazzini quando sono ancora proprio piccoli. Forse il vero atto rivoluzionario di questo film è la leggerezza, no? Quasi la scherzosità in alcuni passaggi e l'emozione fortissima, quindi arriva proprio ai ragazzi, ai ragazzini. Ma è proprio così, guardi, questo film è visto soprattutto dai ragazzi, piace molto agli adulti, ma è visto soprattutto dai ragazzi, e chiaramente attorno a questo film poi si sono aperte una serie di questioni, di domande che i figli hanno posto ai genitori, quindi abbiamo, Piff ha creato questa sorta di conversazione, ecco, ha aperto un dibattito familiare. Ecco, a proposito di famiglia, le volevo chiedere com'è stata la sua infanzia, che tipo di famiglia ha alle spalle? Io ho una famiglia di 4 persone, madre, padre, una sorella, adesso sta arrivando una nipotina, siamo una famiglia romana di... da parte dei nonni di generazioni, poi abbiamo un po' di Puglia, un po' di Abruzzo, quindi siamo una famiglia un po' mista. Abbiamo anche da parte di mia madre la metà della famiglia di mia madre di origine ebraica, quindi posso dire di essere cresciuta in una famiglia che mi ha dato l'opportunità di relativizzare tantissime cose. Di origini insomma medio borghesi, siamo tutti laureati, abbiamo cercato nella nostra vita di sicuramente studiare, di poi ognuno di cercare la felicità, diciamo, a proprio modo. La felicità non è una conquista assoluta e definitiva, è un momento che va sempre ricercato, secondo me, e passa, è veloce, bisogna essere in grado di coltivarla, di sentirla, di incentivarla, in qualche modo di cullarla. E è un lavoro quotidiano, costante, credo che questo sarà il lavoro che farò costantemente fino alla fine, insomma, come spero che facciano tutti. Volevo chiederle se c'è per lei una prima volta, sa, a volte anche una prima volta quasi che si sogna come l'incubo ricorrente, però dico, c'è una prima volta in cui lei ha debuttato e ha detto orrore, paura, oppure bellissimo, vado? Ma due cose, sicuramente quando ho condotto Zelig, perché prima, diciamo, della puntata televisiva c'è una serata preparatoria a teatro, in un teatro, lo Zelig, il teatro storico di Viale Monza a Milano, e c'erano tutti i miei amici, c'era il mio compagno, abbiamo fatto una conduzione con Giovanni Vermi ed era la mia prima volta, e lì ero terrorizzata, ma ho detto wow, che bello, è stata una prima volta per me veramente emozionante, speciale, da qualche parte lo desideravo, ecco, questo momento, quindi l'ho vissuto anche con grande preparazione emotiva. E dall'altra lato invece la prima volta in cui ho girato con una macchina un po' bella in un circuito a Monza è stata veramente bellissima, appassionata, quindi ho girato con una Porsche, è stato veramente molto bello. Da dove nasce questa passione? Ma diciamo che sono sempre stata un'appassionata di Gran Premio, ero una fan, ma credo che molte della mia generazione lo fossero, di Ayrton Senna, chiaramente. E poi ho desiderato da sempre il motorino, la macchina, mi dava un senso di grande libertà. La velocità mi piace, mi dà un senso di libertà in un contesto protetto, chiaramente in un circuito. Sono anche, dicono, abbastanza portata, quindi mi diverto, ogni tanto mi ci dedico, ecco. Siamo dunque arrivati alla fine. Vi lasciamo sulle note di una delle mie canzoni preferite di Caparezza e ci risentiamo domenica alle 23. Oppure potete riascoltare questa e tutte le altre puntate andando sul sito di Radio 24. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano, la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota. Fa la storia, senza disco, né video, né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo o qualche penna su cui stampano il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo. Chiamalo ipotalamo, lo immagino magico tipo Dynamo. Altro che Freud, un foglio bianco. Per volare alto lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della china mi metto in viaggio. Bravo. Pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown. Il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown. A volte la felicità costa meno di un pound. Chinatown, il mio Gange, la mia terra santa, la mia Mecca. Il prodigio che dà voce a chi non parla, a chi balbetta. Una landa lontana come un amico di penna, dove torniamo bambini come in un libro di penna. Lì si coltiva la pazienza degli amanuensi. L'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi. D'un tratto esplode come un crepitio di mortaretti, come i martelletti dell'Olivetti di Montanelli. Le canne a punta cariche di nero fumo. Del papiro come uno scriba. Questo pezzo lo scrivo ma parla chiaro. Nell'inchiostro mi confondo tipo caccia al calamaro. Sono Colombo in pena che se la rema, nell'attesa di un attracco nell'arena. Salto la cena, scende la sera, penna sfera sulla pergamena. Ma non vado per l'America, sono diretto a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. L'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una pelle e rido come fa un clown. A volte la felicità costa meno di un pound. E con l'inchiostro che ho composto ogni mio testo, ho dato un nuovo volto a questi capelli da Billy Preston. E il prossimo concerto spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento. Lo lascio lì dov'è, dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel. Arrivo in hotel e la stanza si accende. È quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino. Thank you.